terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. A questo punto devo fare una curiosa confessione. Voi riderete, ma è la pura verità. Non so come sia, ma non sono mai riuscito a scoprire quale fosse la nostra situazione da un punto di vista legale. E non lo so nemmeno oggi. Domanda. Il patrigno di un'adorabile fanciullina mozzafiato, che sia tale solo da un mese, un vedovo nevrotico e maturo che abbia una rendita e si sia lasciato dietro i parapetti d'Europa, un divorzio e qualche manicomio, è da considerarsi un parente e quindi un naturale tutore? E se no? Dovevo forse notificare la situazione e potevo arrischiarmi a farlo a qualche pubblico ufficio e presentare istanza? Come si presenta un'istanza? Lasciando così che un incaricato del tribunale venisse a investigare sulla mia sottomessa losca persona e sulla perigliosa Dolores Hayes? I tribunali diventavano smodatamente zelanti solo quando c'erano di mezzo questioni patrimoniali. Due tutori avidi, un orfano derubato, terzi ancora più avidi. Ma nel nostro caso era tutto perfettamente a posto. Era stato fatto un inventario e i modesti beni di Charlotte aspettavano intatti la maggiore età di Dolores Hayes. Far domanda sembrava davvero sconsigliabile. E se me ne fossi stato troppo tranquillo, non si sarebbe magari intromessa chissà quale associazione di ficcanaso? Come il lettore avrà capito, io non sono un uomo pratico, ma nell'ignoranza, nell'accidia, avrebbero dovuto impedirmi di cercare altrove un parere professionale. A trattenermi fu l'atroce sensazione che se avessi interferito in un modo qualsiasi con l'opera del fato, cercando di razionalizzare il suo fantastico dono, quel dono mi sarebbe stato strappato. Ora, ritengo che sia stato un grave errore tornare all'Est e mandare Lo in quella scuola privata di Bursley, invece di svignarcela finché era possibile oltre il confine messicano e starcene quatti per un paio d'anni immersi in una subtropicale beatitudine, finché non avessi potuto sposare senza rischi la mia piccola creola. Devo infatti confessare che, secondo lo stato delle mie ghiandole e dei miei gangli, nel corso di una stessa giornata io passavo da un polo all'altro della follia, dal pensiero che verso il 1950 mi sarei dovuto liberare di un adolescente difficile, il cui magico ninfaggio era svaporato, al pensiero che con un po' di pazienza e di fortuna le avrei magari fatto sfornare una ninfetta col mio sangue nelle vene squisite, una Lolita seconda, che nel 1960, quando io fossi ancora stato dalla Fosse de l'Age, avrebbe avuto 8 o 9 anni. Dirò di più, il telescopio della mia mente, o de-mente, era abbastanza potente da distinguere, nelle remote lontananze del tempo, un vieillard encore vert. Verde marcio? Il balzano, tenero, bavoso, dottor Humbert, intento a esercitare sulle supreme grazie di Lolita Terza l'arte di esser nonno. Ai tempi di quel nostro folle viaggio, non dubitavo affatto che il mio ruolo di padre di Lolita Prima fosse stato un fiasco grottesco. Sì, facevo del mio meglio. Leggevo e rileggevo un libro dal titolo involontariamente biblico, Conosci tua figlia, comprato nella stessa libreria in cui avevo preso allo per i suoi 13 anni un'edizione di lusso della Sirenetta di Andersen, con tante illustrazioni di commerciale bellezza. Ma anche nei momenti migliori il mio personaggio di padre mi sembrava implausibile quanto il suo di figlia. Forse le nostre colpevoli peregrinazioni sciupavano il nostro talento mimetico? Chissà se una fissa dimora e la routine quotidiana di una scolara avrebbero portato un miglioramento. Finì per scegliere Bursley, non solo perché c'era una scuola femminile relativamente tranquilla, ma anche per la presenza dell'università. Nel mio desiderio di essere casé, di aderire in qualche modo a una superficie variegata sulla quale dissimulare le mie strisce da ergastolano, mi venne in mente che conoscevo un tale al dipartimento di francese. Aveva avuto la compiacenza di usare il mio manuale nei suoi corsi e una volta mi aveva proposto di tenere una conferenza. Io non avevo intenzione di accontentarlo perché, come ho già notato una volta nel corso di queste confessioni, pochi aspetti fisici mi sono più invisi del bacino basso e pesante, dei polpacci massicci e della deplorevole carnagione dell'universitaria media, nella quale io vedo forse la bara di grossolana carne femminile nella quale vengono sepolte vive le mie ninfette. Ma agognavo un'etichetta, un passato e un simulacro, e come sarà chiaro tra non molto, c'era una ragione piuttosto bislacca per considerare la compagnia del vecchio Gaston Godin particolarmente sicura. E finalmente c'era la questione dei soldi. La mia rendita scricchiolava sotto il peso di quel viaggio di piacere. Sì, mi attenevo ai motel meno cari, ma di tanto in tanto un chiassoso hotel di lusso o un pretenzioso ranch per turisti venivano a mutilare il nostro bilancio. Inoltre, somme sbalorditive se ne andavano per le gite e l'abbigliamento di Lo e la vecchia carretta di casa Hayes, per quanto arzilla e molto devota, necessitava di numerose riparazioni di varia entità. E così andammo all'est. Io, più devastato che ringagliardito dal soddisfacimento della mia passione, lei raggiante di salute, con la ghirlanda biiliaca ancora breve, come quella di un ragazzetto, benché avesse aggiunto 5 centimetri alla sua statura e 4 chili al suo peso. Eravamo stati dappertutto e non avevamo visto nulla. E oggi, Mi sorprendo a pensare che il nostro lungo viaggio abbia solo sfregiato con una sinuosa linea di fango la magnifica, fiduciosa, sognante, enorme terra che per noi, retrospettivamente, era solo un insieme di cartine con le orecchie, guide squinternate, pneumatici consunti e i suoi singhiozzi nella notte. Ogni notte, non appena io fingevo il sonno. Quando attraverso le decorazioni di luce ed ombra raggiungemmo il numero 14 di Tyre Street, un ragazzetto serio ci venne incontro con le chiavi e un biglietto di Gaston, che aveva preso in affitto la casa a nome nostro. La mia Lo non degnò la sua nuova dimora di uno sguardo, accese senza vederla la radio a cui l'aveva condotta l'istinto, e si sdraiò sul divano del salotto con una quantità di vecchie riviste che, in quello stesso modo cieco e preciso, aveva scovato affondando la mano nell'infera anatomia di un tavolino. Ah, per me non aveva molta importanza dove avremmo abitato, pur di rinserrare la mia Lolita in un posto qualunque, ma forse nel corso della mia corrispondenza con il vago Gaston mi ero vagamente figurato un villino di mattoni rivestito d'edera. Quello, invece, aveva una mesta somiglianza con casa Hayes, dalla quale distava solo 600 chilometri. Era lo stesso tipo di edificio di legno grigiastro, col tetto di assicelle e gli spessi tendoni verde opaco. E le stanze, benché più piccole e arredate in uno stile più coerente, tutto velluti e vetrinette, erano disposte più o meno nello stesso ordine. Ah, il mio studio, però, si rivelò molto più grande, rivestito da cima a fondo da un paio di migliaia di libri di chimica, materia che il mio padrone di casa, partito per un anno sabbatico, insegnava al Bursley College. No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right, and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love, and there's no moon at all. Tonight is right, and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love, and there's no moon at all. Durante il mio primo colloquio con la direttrice, la signorina Pratt, lei approvò i begli occhi azzurri, azzurri, Lolita, della mia bambina, e la mia amicizia con quel genio francese, un genio, Gaston, E poi, dopo aver affidato Dolly a una certa signorina Cormoran, aggrottò la fronte in una sorta di recueillement e disse: «A noi non interessa tanto Mr. Humbird che le nostre studentesse diventino dei topi di biblioteca o che sappiano elencare tutte le capitali d'Europa, e chi le sa, del resto, o che imparino a memoria le date di tante battaglie dimenticate. Quello che ci interessa è che si adattino alla vita di gruppo. Ecco perché ci concentriamo sulle 3D: dramma, danza, discussione e sugli appuntamenti coi giovanotti. Dorothy Humbert è già coinvolta in un sistema di vita sociale che consiste, ci piaccia o no, di chioschi, di hot dog, Coca-Cola, cinema, balli folcloristici, picnic notturni sulla spiaggia e perfino seratine per la messa in piega. Naturalmente qui alla Bursley School disapproviamo alcune di queste attività e ne incanaliamo altre in direzioni più costruttive. Noi, dottor Hamburg, pensiamo in termini organici e organizzativi. Abbiamo eliminato quella massa di argomenti incongrui che venivano tradizionalmente offerti alle ragazze e non lasciavano spazio nei tempi passati alle conoscenze, alle tecniche e agli indirizzi di cui avranno bisogno nel gestire le proprie vite e, potrebbe aggiungere il cinico, le vite dei mariti. Mr. Amberson, mettiamola così. La posizione di una stella è importante, ma per una massaia in boccio, il posto più pratico che in cucina deve occupare il frigorifero può essere ancora più importante. Che cosa mai può importare a Dorothy Hammerson della Grecia e dell'Oriente, coi loro harem e le loro schiave adolescenti? Quel programma mi inorridiva. Ma parlai con due signore intelligenti che avevano avuto a che fare con la scuola, le quali asserirono che le ragazze facevano una quantità di solide letture e che la politica della comunicazione era solo uno specchietto per le allodole con cui si voleva dare un tocco di remunerativa modernità alla Bursley School, che era e restava vecchia come il cucco. Un'altra delle ragioni che mi attrassero verso quella particolare scuola farà forse sorridere qualcuno dei miei lettori, ma per me era molto importante perché io sono fatto così. Esattamente di fronte a casa nostra c'era, notai, uno spiazzo coperto di erbacce, qualche cespuglio variopinto, una montagna di mattoni, varie assi sparpagliate qua e là, e la spuma di malandati fiori d'autunno, malva e cromo sul ciglio della strada. Da quel varco si godeva una luccicante porzione di School Road, parallela alla nostra Tyre Street, e subito oltre il campo giochi della scuola. Ecco, a parte il sollievo psicologico che avrei tratto da quella sistemazione, tenendo la giornata di Dolly adiacente alla mia, pregustai immediatamente il piacere che avrei provato nello scorgere dalla mia camera studio, grazie a un potente binocolo, la percentuale statisticamente inevitabile di ninfette tra le altre fanciulle che giocavano intorno a Dolly nell'intervallo. Ma purtroppo, proprio il primo giorno di scuola, arrivarono dei muratori che costruirono un recinto a un certo punto dello spiazzo. E in men che non si dica, un'impalcatura marroncina crebbe maligna oltre il recinto, bloccando completamente la mia magica visuale. E quegli scriteriati, appena ebbero eretto una quantità di materiale sufficiente a guastare tutto, sospesero i lavori e non ricomparvero mai più. Thank you. parola a proposito di Gaston Gaudin. La principale ragione per cui gustavo, o almeno tolleravo con sollievo, la sua compagnia era il fluido di assoluta sicurezza che la sua ampia persona effondeva sul mio segreto. Ah, non che lui lo conoscesse! Non avevo alcuna particolare ragione di confidarmi con lui, e lui era troppo egocentrico e astratto per notare o sospettare qualcosa che potesse condurre a una domanda diretta da parte sua e a una risposta franca da parte mia. Parlava bene di me ai Bersdeliani. Era il mio buon Araldo. Se avesse scoperto me, Gu, e lo status di Lolita, la cosa lo avrebbe interessato soltanto perché gli avrebbe chiarito la naturalezza del mio atteggiamento nei suoi confronti. Ah, un atteggiamento del tutto privo di cortese imbarazzo, come di allusioni salaci. Nonostante la sua intelligenza incolore e la memoria confusa, infatti, lui doveva immaginare che io sapevo sul suo conto molte più cose dei cittadini di Bursley. Era uno scapolo malinconico e flaccido, col viso terreo e molliccio. Andava gradualmente assottigliandosi verso l'alto, fino alle spalle strette e leggermente asimmetriche, e alla conica testa a pera con lucidi capelli neri da una parte e qualche ciuffetto di riporto dall'altra. Ma la metà inferiore del suo corpo era enorme e lui deambulava con uno strano passo felpato da elefante grazie a un paio di gambe di fenomenale robustezza. Era sempre vestito di nero, cravatta compresa. Faceva il bagno di rado. Ma il suo inglese era una burla. E tuttavia tutti lo consideravano sommamente adorabile, adorabilmente eccentrico. Ah, i vicini lo vezzeggiavano. Sapeva il nome di tutti i maschietti del vicinato. Abitava a pochi isolati da me. E alcuni di loro gli spazzavano il marciapiede o bruciavano le foglie in giardino. O magari andavano a prendergli la legna in legnaia. E facevano perfino piccoli lavori domestici. E Gaston offriva loro fantasiosi cioccolatini con dentro liquore vero, nell'intimità del seminterrato arredato all'orientale, con divertenti pugnali e pistole disposti sui muri ammuffiti e adorni di tappeti in mezzo alle tubature camuffate. Ma per ragioni evidenti preferivo casa mia per le nostre partite a scacchi bi o tri settimanali. A volte, da dove sedevamo nel mio studio freddo, sentivo i piedi scalzi di Lo che si esercitavano la danza nel salotto al pian terreno, ma i sensi esterni di Gaston erano confortevolmente obnubilati ed egli restava inconsapevole di quei nudi ritmi e uno e due e uno e due. Il peso si trasferisce sulla gamba destra, diritta, gamba in su e di lato. E uno e due. E solo quando Lo si metteva a saltare, allargando le gambe all'altezza del salto, flettendo una gamba e tendendo l'altra e volando e atterrando sulle dita dei piedi, soltanto allora il mio pallido, pomposo, truce avversario si sfregava la testa o la guancia come se prendesse quei tonfi remoti per le spaventevoli stoccate della mia formidabile regina. Mi rincresce indugiare così a lungo su quel poveretto. Purtroppo, un anno dopo, durante un viaggio in Europa dal quale non tornò, restò implicato in una Celle Histoire a Napoli, pensa un po'. Difficilmente l'avrei menzionato se la sua esistenza a Bursley non avesse esercitato sul mio caso un influsso così bizzarro. Ho bisogno di lui per la mia difesa. Guardatelo, quel pingue vecchio, invertito, depresso e repellente, un uomo privo di qualsiasi talento, insegnante mediocre, studioso scadente, che teneva in sommo dispregio l'American way of life e ignorava trionfalmente la lingua inglese. Guardatelo! Nel pretenzioso New England, coccolato dai vecchi e carezzato dai giovani. Oh, guardate come si gode la vita e li mena per il naso. E guardate me!